Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a tutti, benvenuti. Oggi è una giornata speciale, sono riprese le scuole, i nostri bambini, i nostri figli sono già tra i banchi di scuola e noi li stiamo pensando e parleremo di loro, lo faremo nel corso e lo stanno facendo già nel corso di tutta la giornata in questa sorta di non stop, lo Scuola Day dedicato proprio alla ripresa delle scuole, quindi voi tutti avrete la possibilità di interagire con gli ospiti presenti in studio. Il nostro numero è sempre attivo, 824 0024. Qui dallo studio multimediale di Radio 24 siamo in tanti a parlare di bambini. Oggi ci occuperemo della loro salute su due fronti. Naturalmente parleremo della salute del corpo con tutte le sfide, no, che i primi giorni di scuola comportano, dallo zainetto, torneremo a parlare dello zainetto, ma soprattutto parleremo di alimentazione, parleremo di compiti. I bambini magari sono già affaticati, iniziano la scuola e dopo una settimana, 10 giorni, li vediamo già svogliati, affaticati, si prendono le prime tosse, i primi raffreddori, quindi noi avremo a disposizione un esperto, anzi ve lo presento subito, il dottor Andrea Guala, che è primario pediatra dell'ospedale di Verbania. Buongiorno. Buongiorno. Pronto a rispondere a tutte le domande dei nostri ascoltatori che attinenti ai loro bambini. Sì. In qualche posto la scuola è già iniziata da una settimana, in altri invece inizia oggi e quindi ci sono molti argomenti di cui parlare. L'alimentazione, la colazione. Dalla prima colazione alla merendina, poi i bambini si fermano a mangiare a scuola, alcuni mangiano, altri non mangiano e poi naturalmente le prime tosse, i primi raffreddori, anche quelli, no? Arrivano con le scuole, con il primo cattivo tempo, arrivano anche loro, ma naturalmente noi parleremo anche un po' delle paure, delle difficoltà, dell'attenzione dei nostri bambini. Ci sono magari bambini che oggi hanno puntato i piedi per andare a scuola. Allora ci aiuta sul fronte emotivo, chiamiamo così, ci aiuta Alberto Pellai, che insieme a me conduce Questa Casa Non È Un Albergo e che abbiamo preso in prestito a Essere Benessere per darci dei consigli. Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Penso che le maestre questa mattina hanno visto le lacrime di qualche bambino che faceva fatica a entrare in aula, ma se soltanto fossero state fuori dal cancello avrebbero visto anche qualche lacrima di mamme che si separavano dai loro figli per farli entrare nel loro primo giorno di scuola. La scuola però, per fortuna, non è solamente compiti, attenzione, la scuola dovrebbe anche essere movimento e direi anche divertimento, soprattutto se parliamo di attività fisica per i nostri bambini. Lo facciamo oggi con il dottor Andrea Colombo, che è psicologo dello sport e, ci tengo a sottolinearlo, ex atleta olimpico, padre di due bambini, di cui uno, come si dice a Milano, Remigino, perché è andato oggi a scuola, no? È entrato nella prima elementare. Certo. Benvenuto e grazie per essere con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, ovviamente quando Alberto diceva qualche lacrima di mamma, in realtà anche qualche lacrima di papà, visto che l'ho accompagnato la scorsa settimana, ho accompagnato mio figlio per la prima volta a scuola la scorsa settimana, effettivamente è stato un primo giorno di scuola anche per noi. Effettivamente quando si rientra dall'estate, quando i bambini rientrano dall'estate, il divertimento, sempre fuori all'aria aperta e si ritorna sui banchi di scuola, questo può essere un piccolo trauma, un po' una difficoltà. Perché stanno tante ore a scuola, quindi certo. Io credo che abbiano proprio il desiderio di muoversi, che le ore non passino mai, speriamo nell'intervallo, no? Dove riescono a fare una corsetta. Adesso più o meno sono le 11:15, magari è tempo dell'intervallo, ma io, dottor Guala, farei un passo indietro. L'intervallo di solito è sinonimo di ricreazione, quindi socializzazione con gli altri bambini, ogni bambino tira fuori dalla cartella magari la merendina. A proposito, io vorrei chiedere ai genitori in ascolto che cosa avete messo nella cartella di vostro figlio oggi per fare merenda. Magari già i papà in studio possono dirci la loro. Alberto, tu che cosa hai messo? Intanto ricordo il nostro numero verde, chiamateci, che così mettiamo le nostre merendine sul tavolo e il dottor Guala decide se è stata una scelta buona o magari un pochino. 824 0024, il numero verde come sempre 349 238 6666. Alberto, tu cosa hai fatto? Allora, lunedì è giorno di crackers, quindi un pacchetto di crack nella cartella di Jacopo. Va considerato che nella scuola di Jacopo il martedì e il giovedì è un giorno in cui è obbligatorio mettere una merenda a base di frutta, e Jacopo durante i 3 giorni che rimangono può scegliere 2 salati e 1 dolce, quindi per oggi lui ha chiesto di mettere in cartella un pacchetto di crack. Mi sembra una buona idea, no, dottor Guala, questa della scuola che invita a mettere 2 giorni, no, di una merendina a base di frutta, ma voglio sentire anche che cosa ha messo nella cartella di suo figlio, dottor Colombo. Dottore. Certo, dunque la decisione era tra una schiacciatina, quindi un cracker, e un frutto. E in realtà il pensiero è che Diego ha più bisogno di energia, lui comunque è un bimbo che mangia abbastanza la frutta, la verdura, quindi più energia, schiacciatina e succo di frutta. Schiacciatina e succo di frutta. Dottor Guali, iniziamo a vedere se queste 2 merendine dei nostri papà sono giuste, oppure invece lei avrebbe messo qualche cosa d'altro. No, le scelte sono giuste. Importantissimo è non esagerare con la quantità, perché i bambini stanno fermi in realtà per tante ore e quindi consumano anche poco. La merenda di metà mattina è più un intervallo anche psicologico oltre che alimentare, e quindi qualche zucchero, soprattutto a lento assorbimento, i cracker, la schiacciatina e così via, è un'ottima scelta. Io intanto ho in linea con noi un maestro, è uno scrittore, ma è un maestro, perché io ho letto i suoi libri e oggi l'ho invitato proprio perché il suo occhio ci quello che ha visto tante generazioni di bambine, insomma ci racconti quello che a noi genitori non è dato vedere. In linea con noi abbiamo il maestro Marcello Dorta, buongiorno. Buongiorno. Noi stiamo già mangiando, maestro, noi stiamo già facendo la merendina di metà mattina. Lei ne avrà viste di merendine di ogni forma, e di ogni peso. Sì, e a qualunque ora. E a qualunque ora. Da quando si entrava in classe a quando si usciva, nel mezzo, in qualsiasi, non c'era regola praticamente, no? Non c'è una regola, perché evidentemente i ragazzi, soprattutto negli ultimi tempi, di regole non è che ne abbiano tante. Per cui non si rispetta più niente, poi dovrebbe essere naturalmente sempre la famiglia a monta naturalmente a fare determinati discorsi. Vabbè, ma i ragazzi, si sa, non ascoltano volentieri, per cui noi prendevamo soltanto atto di questo disordine, diciamo, no? Sì, ma merendine sequestrate non ce ne sono state, non è la sua classe, oppure magari la tentazione di addentare qualche merendina particolarmente gustosa, maestro? La tentazione a volte veniva anche a noi insegnanti, devo dire la verità. Cioè, per esempio, ricordo il film tratto dal mio libro, in cui a un certo punto, per la festa, in occasione della festa delle donne, sì, Paolo Villaggi porta un cartoccio di pasta e le distribuisce praticamente a tutti i suoi alunni, a tutti tranne al ragazzo più grasso, diciamo, no? Quello, sì, che comunque mangiava, comunque, quello più morbido. Dicono più morbido. Apre il cassetto della scrivania e mette un babà in questo cassetto, suona la campanella, vanno tutti quanti via. Lui è convinto che sia andato via anche il ragazzo grasso, apre il cassetto e sta cercando di addentare il babà. Viene sorpreso dall'alunno che dice: professore, facciamo metà per ciascuno. Fantastico. E, ecco. Alberto, ritornando, io farei un passo indietro. Dalla merenda di metà mattina, io farei un passo in un momento molto importante che spesso viene trascurato, che è quello della prima colazione. Noi sappiamo che i bambini, magari quelli che sono abituati a svegliarsi, no, durante le vacanze un pochino più tardi, devono mettere la sveglia e si alzano inappetenti, no? Della colazione proprio ne vogliono sapere. Le mamme li rincorrono per un po', poi sappiamo che soprattutto se si devono accompagnare più bambini a scuola e poi insomma ci sono tante cose da fare, uno dice vabbè, va per stamattina, vai così. La prima colazione invece è determinante. Allora io vorrei che ciascuno di voi dal proprio osservatorio ci spiegasse perché. Allora, Alberto, a te spetta il compito di capire come affrontare un bambino che proprio di prima colazione non ne vuole sapere. Il dottor Guala ci spiegherà come deve essere, perché è importante, e soprattutto poi andremo dal dottor Colombo, perché sicuramente, no, per far funzionare i muscoli ci vuole, bisogna metterci dentro carburante. Un po' di carburante. Allora, Alberto. Ma direi che il problema di un genitore al mattino con la prima colazione si chiama la guerra del tempo. Sono tutti di fretta, la colazione, quando un bambino soprattutto si sveglia un po' svogliato e inappetente, rischia di diventare un tempo lunghissimo e nessuno ha quel tempo lì a disposizione, perché bisogna correre. Qualche consiglio veloce: si può apparecchiare il tavolo della prima colazione alla sera prima di andare a dormire insieme al bambino, decidere insieme a lui come sarà la sua prima colazione del giorno dopo, fargliela proprio un po' scegliere magari tra alcune cose naturalmente sane che il bambino ha a disposizione, e questo significa prepararlo già a quel momento, cioè lui sa nel momento in cui si sveglia che quello è un passaggio obbligato. In queste prime settimane si potrebbe anticipare di un po' la sveglia, del risveglio del primo mattino, cioè proprio perché la variabile tempo è determinante, dovete mettervene a disposizione un po' di più, quindi mamma e papà si svegliano prima e guadagnate 10 minuti in modo che non si deve correre per fare la prima colazione. E l'ultima cosa molto importante, l'ideale sarebbe sedersi tutti insieme. Tutti insieme. Abbiamo il Riccarda che ci chiama da Bergamo, 824 0024. Riccarda, benvenuta. Buongiorno. Intervenivo per rispondere alla domanda che avete posto. Sì. Riguardo alla merenda che ho dato al mio bambino quest'oggi. Ho preparato un croccante fatto in casa con delle nocciole, che a loro piace molto. Comunque la questione della merenda è sempre molto problematica. Il mio bambino addirittura mi chiede la sera prima cosa metterò nella cartella il giorno successivo, poi ci sono i vari commenti. Perché se la pregusta? No, perché teme che non gli dia qualcosa che a lui non piace. Quindi barattate. Dottor Guala, è una... come così considera la scelta di Riccardo da Bergamo? Ha preparato il croccante. Non è facile, vero Riccardo, tra l'altro, preparare il croccante? Le viene sempre? Nonna. Ah, ecco, vede, c'è una ricetta. Dottor Guala. La scelta direi che è ottima, soprattutto se il giorno prima magari è stato preparato insieme col proprio figlio o, nel caso particolare, il nipote. Sì. Perché in questo modo diventa ancora più appetibile la cosa che viene preparata e portata a scuola. L'altro discorso è la varietà. Sì. In effetti, come diceva prima Alberto, qualche volta la frutta, che sarebbe ideale, e anche nella scuola dove vanno i miei bambini, ci sono due giorni alla settimana, per così dire, un frutto obbligatorio. Sì. E questo impedisce, permette di non avere nessuna discrepanza tra i vari bambini. Io ho portato la focaccia e tu mangi la mela. Tutti i giorni, quei giorni stabiliti, c'è quello. E l'altro discorso è la variabilità, quindi un giorno diverso dall'altro, barattando magari col bambino le cose più appetibili per lui o meno, ma anche quelle meno devono essere in ogni caso, dal punto di vista educativo, proposte. Dottor Colombo, un po' un suo parere da esperto e da papà. Poi ho un messaggio per il dottor Guala che riguarda i succhi di frutta. Una mamma si lamenta, forse è necessario fare qualche puntualizzazione. Dottor Colombo. Beh, mi piace molto quello che ha detto Alberto Pellai, cioè l'idea di dare una routine come prima colazione, e quindi come facciamo noi in famiglia, di sedersi insieme, fare colazione tutti insieme. Ovviamente per Diego, che quest'anno è in prima elementare, anticipare la sveglia come routine, come proprio un modo per iniziare la giornata, organizzare la giornata tutti insieme, partire tutti insieme senza che ci sia troppo quella fretta, che ovviamente è un po' nemica di una buona prima colazione fatta con i sacri crismi, cioè con di buon anche cercheri. Perché se non fanno colazione poi sono disattenti, hanno, no, sì, stomaco brontola, come si dice, e poi ci si avventa su queste merendine. A proposito, dottor Guala, ho bisogno che lei ci faccia una precisazione. Ci scrive Alessandra da Pisa: è sbalorditivo che un medico consideri buono una merenda a base di cracker, cibo con conservanti e succo di frutta, bevanda ultra dannosa, per stessa missione di un altro medico intervenuto proprio nella sua trasmissione. Ultra dannosa no, avrà detto che tempo fa, che spiegò proprio perché i succhi di frutta non hanno niente di positivo. Ricordate che vi ascoltiamo. Allora, dottor Guala, apriamo questa parentesi sui cibi che contengono conservanti, che cosa possiamo dare ai nostri bambini, se il succo di frutta, come Alessandra si ricorda, è così, per ammissione di un medico, così dannoso, o forse magari un alimento da dare con una certa, no, su cui non esagerare, magari meglio, comunque abbiamo sempre sottolineato, una spremuta fresca piuttosto che un succo. succo, ma tante volte la fretta. In realtà il succo di frutta dal punto di vista nutrizionale sono acqua e zuccheri a rapido assorbimento, e questo quindi, se isolato, non è il meglio per quanto riguarda una merendina. Ma se è legato a zuccheri a lento assorbimento, come possono essere quelli dei cracker, ecco che può dare una carica più rapida legata ad una più lenta dell'assorbimento dei cracker. E ovviamente tutti i giorni la stessa cosa non va bene, certo. Sia per quanto riguarda appunto la naturalezza degli alimenti. E immaginiamo che se noi cambiamo alimentazione tutti i giorni, anche se ci fosse qualcosa che distonato, non andasse insomma, bene, lo recuperiamo. Dopo. Naturalmente noi siamo qui per darvi dei consigli con i nostri esperti, ci raggiungerà anche il dottor Franco Confalonieri. Tra poco affronteremo il problema, perché sta diventando per certi versi un problema, dell'attività fisica dei nostri figli. Molti genitori si chiedono: cosa faccio? Gli faccio fare due sport una volta alla settimana per ciascuno, oppure due volte alla settimana lo stesso sport? C'è il discorso della piscina, dottor Guala, sappiamo che i nostri bambini il nuoto fa bene, ma ci sono già delle mamme preoccupate che ci scrivono: ma mio figlio l'otite si ammala spesso, eccetera. Quindi noi vi aspettiamo, 824 0024, è tempo giustissimo, c'è Filippa Oreggi in regia che mi dice che sono pronti gli aggiornamenti dei mercati finanziari, poi il meteo di nuovo qui per parlare dei nostri bambini, a tra poco. Essere e benessere. Quale parabola preferisci? Svolgimento. Io la parabola che preferisco è la fine del mondo, perché non ho paura, in quanto che sarò già morto da un secolo. Dio separerà le capre dai pastori, una a destra e una a sinistra, al centro quelli che andranno in purgatorio. Saranno più di 1.000 miliardi, più dei cinesi, e Dio avrà 3 porte, una grandissima che è l'inferno, una media che è il purgatorio, è una strettissima che il paradiso. Poi Dio dirà: fate silenzio tutti quanti, e poi li dividerà a uno qua e a un altro là. Qualcuno che vuole fare il furbo vuole mettersi di qua, ma Dio lo vede e gli dice: uè, a dove vai? Il mondo scoppierà, le stelle scoppieranno, il cielo scoppierà, Corzano si farà in 1.000 pezzi, i buoni rideranno e i cattivi piangeranno, quelli del purgatorio un po' ridono e un po' piangono, i bambini del limbo diventeranno farfalle. Io speriamo che me la cavo. Io speriamo che me la cavo, del 92 di Lina Wertmüller, tratto dal libro del maestro Marcello Dorta, che è in linea con noi. Maestro. Sembra un'emozione ascoltare questo tema, che credo che sia forse il più bello di tutto il libro. E poi questo di dire io speriamo che me la cavo è un po', come dire, è un augurio che ci facciamo anche noi adulti, certo, che si fa tutta l'umanità. Anche perché poi i bambini hanno, no, questo ottimismo, io speriamo che me la cavo, insomma, i bambini poi hanno un po' la tranquillità di cavarsela. Guardi, quando Giuseppe Marotta ha scritto L'oro di Napoli, no? Poi sì, in definitiva qual è questo oro di Napoli? Lui dice la pazienza e la speranza, questa è alla fine quest'oro di Napoli. Maestro, allora, ci dà un paio di consigli, perché anche noi genitori che magari siamo un po' preoccupati, sono le piccole ansie, i dubbi, no? che così segnano un po' l'ingresso dei nostri figli a scuola: andrà bene, andrà male, si troverà bene con i compagni, riuscirò. Insomma, perché anche noi possiamo dire da genitori: beh, io speriamo che me la cavo. Guardi, oggi è il primo giorno di scuola, intanto per molte regioni d'Italia, quindi io faccio gli auguri veramente a tutti quelli che sono impegnati nella scuola, anche se questo è un periodo di grandi agitazioni, sì, perché come sappiamo dall'anno prossimo verrà reintrodotto il maestro unico e tante altre cose. Poi non entriamo nel mezzo, no, perché qui c'è chi la vede in una maniera e chi la vede, certo, in un'altra. I consigli sono, secondo me, consigli molto semplici, almeno per quanto riguarda questi primi giorni. Per esempio, è stato anche detto, non far svegliare i ragazzi tardi, perché poi diventa tutta una corsa e si va a scuola traferati, eccetera. Sì. Non fargli vedere la televisione prima di uscire, perché quando questi ragazzi accendono la TV, vedono i cartoni animati, arrivano già a scuola con nella mente tutto un universo che poi non è quello della scuola, sembra che, così, che la scuola sia qualcosa, sì, di brutto e di arido. Fagli farlo, abbiamo detto, una buona colazione, una buona e semplice colazione, e poi cercare di far capire a loro che questo inizio d'anno scolastico è una sorta di avventura, come se fosse una sorta di avventura, di una piccola grande sfida, ecco. Questo mi piace. Piccoli consigli che però fatti diciamo da tutti i genitori possono portare loro frutti. Maestro, io la saluto, la ringrazio per essere stato con noi. Se volete scriverci, noi contattiamo per voi il nostro maestro Marcello Dorta, che ci darà dei consigli. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Abbiamo in linea con noi Andrea da Roma. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Ricordo il nostro numero verde per intervenire in trasmissione, 800-24-0024. Oggi domande aperte ai nostri esperti, quindi saltiamo dalla merendina al nuoto al pomeriggio, passando magari per le lacrime dei bambini che i primi giorni di scuola, magari pur avendo fatto la scuola materna, non si staccano volentieri dalla mano della mamma. Allora, Andrea, buongiorno e parta con la sua domanda. La domanda è questa: la mattina a colazione io ho due bambini, Pietro che vuole solo lo yogurt, sì, e tosta e marmellata, e Felipe che vuole solo tè, sì, quindi il mio latte che ho sempre preso, sì, magari un po' grasso, quindi anche io ho qualche dubbio anche sul latte, sì, però mi sembrava una cosa fondamentale. Invece sui miei figli uno yogurt e uno tè, volevo chiedere al dottor Guala, sentiamo che cosa ha da consigliare ad Andrea. Quindi due bambini, due gusti diversi, no? Un po' come quando con gli amici si va a prendere un caffè, non ce n'è uno che uno lo vuole macchiato, l'altro lungo, ristretto, macchiato freddo. E così spesso, no, nelle tavole degli italiani la colazione è la somma di tanti piccoli pasti diversi che mettono un po' in crisi le mamme. Ma dottor Guala, tornando a bomba alla domanda del nostro amico da Roma. Che il latte va benissimo, soprattutto pensando poi all'apporto di calcio che permette alle ossa dei bambini di crescere nel modo migliore. Se non ci sono intolleranze, quant'altro? Se non ci sono intolleranze, di solito l'intolleranza è al lattosio, che viene risolta con l'utilizzo dello yogurt, per esempio, sì, che è già un latte predigerito in modo da essere assunto anche da chi è intollerante. Per quanto riguarda il tè, ecco, se isolato e legato è acqua il tè, non porta alcun nutrimento se non lo zucchero aggiunto, quindi un tè legato a un toast, per esempio, che è pane, prosciutto, formaggio, potrebbe andar bene come, certo, liquido, ma non da solo. Mentre sullo yogurt, il bambino che desidera lo yogurt, si può aggiungere anche della frutta, si possono aggiungere dei cereali e quindi, no, fare una sorta di mini pasto. Certo, e il latte e lo yogurt sono equivalenti. In pratica lo yogurt è un latte acidificato e dà batteri, e questi quindi possono aiutare anche l'ecosistema intestinale, addirittura un aiuto al sistema immunitario. E adesso diamoci una mossa, no? Perché li nutriamo, li mandiamo a scuola perché diventino grandi, perché no? Apprendano, imparino a leggere, scrivere, fare di conto, però abbiamo bisogno anche che i nostri figli facciano un po' di attività fisica. Sappiamo che i nostri bambini italiani sono tra i più cicciottelli d'Europa, vero dottor Guala? E cercheremo poi di capire perché il bambino non diventa sovrappeso da un giorno all'altro. Ci sono sicuramente una serie di segnali sul cui il dottor Guala, se volete, tornerà. Ma io vorrei approfittare del dottor Colombo per rispondere già ad alcuni messaggi per dei nostri ascoltatori. Ad esempio, una bimba di 6 anni, la mamma vuole la danza, il papà il karate. Cosa ci consigliate? Scrive Renato. Quindi due attività molto lontane per una bambina, giustamente magari la mamma la vede col tutù, il papà invece la vorrebbe più, no? Attiva, e quindi sceglie un'arte marziale. Dottor Colombo. Beh, questo credo dipenda davvero dalle caratteristiche, quindi da come conosciamo nostro figlio. La cosa importante è comunque quella di passare il concetto e il messaggio che l'attività fisica, il fatto di muoversi, fa bene fin dalla tenera età, come dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cioè, alla fine quello che dobbiamo insegnare fin dai giovani ai ragazzi è uno stile di vita in cui il movimento, inteso come anche il movimento del corpo, quindi, certo, consapevolezza del proprio corpo, delle proprie emozioni, diventano una cosa fondamentale. Quindi dobbiamo accompagnare, indipendentemente dalla scelta di uno sport piuttosto che di un altro. Ecco, a proposito di scelta, io volevo chiedervi questo: è il bambino che sceglie o è il genitore? E poi bisogna farsi comunque dare un consiglio dal pediatra o si va un pochino a istinto, no? Magari l'amico del cuore fa uno sport e quindi si lega magari all'idea del fatto che abbia un amichetto oppure alla comodità. Alberto, tu che cosa consiglieresti? Direi che hai già dato tutte le risposte valide, cioè è una combinazione di tutti i fattori che dici tu. La cosa secondo me importante è questa: ogni tanto i genitori iscrivono i propri figli a un'associazione sportiva e spesso si rendono conto che dopo 2 o 3 mesi i bambini si trovano incastrati in una quantità di impegni che assolutamente non avevano previsto, per cui sabati, domeniche, tornei eccetera. Se vi sembra che la società sportiva in qualche modo ha preso in ostaggio vostro figlio e voi non riuscite più a regolare il tempo dello sport dal resto del tempo libero, ecco, quello è il momento in cui fare un passo indietro, cioè riverificare che ti abbiamo iscritto a uno sport quando così da piccolo, ma non per farti diventare un piccolo campione, bensì per farti essere fisicamente attivo, e questo non può condizionare tutto il tuo tempo libero. Dottor Guala, lei come pediatra suggerisce alle mamme, ai genitori dei suoi bambini, un tipo di attività fisica piuttosto che un'altra, e come fa a suggerirla, in base a quali variabili? Non una in particolare, devo dire, anche perché il primo punto da tenere presente è che il bambino si diverte. Sì. Perché farlo, obbligarlo a muoversi in un ambiente dove non si trova, ecco che diventa negativo anche per il futuro. Quindi deve scegliere, tra virgolette, il bambino un'attività divertente. Gli altri fattori sono la comodità dei genitori, perché ci sono delle cose migliori, ma che sono molto distanti dalla casa e quindi impossibili da mettere in pratica. Terza cosa, non esagerare. Non esagerare. Dottor Colombo, se il dottor Guala dice non esagerare, lei come traduce questa raccomandazione? 1, 2, 3 volte tutti i giorni? Cosa vuol dire? Significa che un bambino che va dai 6 agli 11-12 anni può tranquillamente fare un paio di attività, quindi 2 volte la settimana, con l'obiettivo fondamentale che appunto è quello di trovare un luogo nel quale divertirsi, trovare un luogo nel quale fare del movimento. Non ci deve essere nessun tipo, dal mio punto di vista, di impegno agonistico, proprio perché l'impegno agonistico, il fatto di ottenere certi risultati è qualcosa che viene successivamente, soltanto quando si sono consolidate delle motivazioni e il divertimento all'attività fisica. Quindi io credo che... Alberto. Intervengo velocemente per tutti quei genitori cui i bambini hanno proprio cominciato oggi la scuola. Al di là poi dello sport che faranno, la loro fatica più grande in questo momento è riuscire a sentire vivo il loro corpo e ad adattarlo ai ritmi dell'apprendimento, che invece sono completamente rivoluzionati rispetto alle abitudini che hanno le materne. Le insegnanti dovrebbero saperlo bene: in prima elementare bisognerebbe fare 2 intervalli nell'arco della mattinata invece che uno solo, verificare se questo succede, e quando voi prendete i vostri bambini tenete proprio uno spazio per il gioco libero del corpo, quindi dovreste proprio presidiare il gioco al parchetto, il gioco in cortile, il gioco con gli amici, un gioco dove il corpo sia protagonista, perché questa è la sfida e la fatica più grande che i vostri bambini stanno facendo in questo momento. E allora rimanete con noi, perché vi daremo anche un po' di consigli, delle indicazioni, perché i bambini che fanno il tempo pieno, non so se iniziano già dal primo giorno, comunque poi escono alle 4:30, magari adesso ci sono un pochino di prove generali, quindi delle indicazioni e dei consigli che ci darà anche un ospite molto conosciuto, familiare, che è di casa Essere Benessere, che è in linea con noi, il dottor Franco Confalonieri. Buongiorno, medico sportivo e responsabile del centro DDS di Settimo Milanese. Buongiorno dottor Confalonieri. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Dottor Confalonieri, venga con noi a sentire il traffico e poi torniamo insieme ancora con i consigli del dottor Confalonieri, e poi parleremo naturalmente di compiti, di bambini che magari già manifestano un desiderio di fuga al pomeriggio, non vogliono stare a fare i compiti, e ci aiuterà Alberto Pellai e naturalmente anche il dottor Guala. Tra poco. Essere e benessere. Bambini tra i banchi di scuola, genitori a casa, scuola di salute. In linea con noi abbiamo il dottor Franco Confalonieri. Dottor Confalonieri. Buongiorno, innanzitutto volevo fare una puntualizzazione che forse può servire di chiarimento ai genitori, perché ho sentito due cose molto esatte ma che vanno integrate fra loro. Il dottor Colombo diceva attività sportiva organizzata almeno due volte alla settimana è perfetto, il dottor Pellai però aggiungeva portateli tutti i giorni al parchetto. Ecco, in questo messaggio vorrei che arrivasse forte e chiaro. Il bambino ha bisogno di un'ora e mezza, due ore di gioco con il proprio corpo tutti i giorni. È fondamentale perché cresca sano e intelligente. Quindi che sia un'attività sportiva organizzata, che sia il parco, che sia la strada, che sia, ma purtroppo è molto raro, la scuola stessa, questo deve essere un obiettivo prioritario se abbiamo rispetto dei nostri figli. Questo l'avevamo in parte sottolineato, dottor Confalonieri, grazie per esserci ritornato. Vuole aggiungere uno spunto, una considerazione su cui far lavorare i nostri amici all'ascolto? Vorrei aggiungere un'altra considerazione. Si è parlato della scelta dell'attività sportiva più congeniale. Ecco, nello scegliere l'attività sportiva più congeniale sarebbe bello ed importante tenere presente anche quelli che sono i fattori di rischio legati alla salute, alle caratteristiche fisiche, alla struttura e all'apparato muscolo-scheletrico del bambino, di cui troppo spesso ci dimentichiamo. La nostra scuola, purtroppo, mi spiace essere polemico, ma è andata indietro in tante cose. Una volta esisteva la figura del medico scolastico, che era una figura di straordinaria importanza dal punto di vista preventivo, perché andava a individuare tutta una serie di fattori di rischio che poi porteranno a patologie croniche. Adesso non c'è più il medico scolastico, non c'è più neanche la visita di leva, sì. Per cui davvero noi spesso abbiamo ragazzi che non vengono più visitati fino alla maggiore età. E questo davvero comporta un costo sociale altissimo per lo Stato dopo e un livello di salute e di vita peggiore per tutti i bambini. Quindi magari sfruttiamo l'idea dello scegliere lo sport, scegliere l'attività, per cercare anche di capire se i nostri figli stanno davvero bene o se c'è qualche fattore di rischio nella loro crescita. Grazie dottor Confalonieri, come si dice messaggio ricevuto, quindi occhio ai nostri bambini, assicuriamo loro le giuste attenzioni, no? Sembra una banalità dirlo, ma è difficile, no? Al giorno d'oggi con tutti questi stimoli, questi messaggi, questa fretta, questo ritmo un po' pressante, riuscire a pianificare e a dare le attenzioni, dedicare il giusto tempo, perché tante volte è questione di tempo, no Alberto? Dottor Guala. Volevo aggiungere a quello che ha detto il dottore che in Italia c'è la pediatria di base che prende in carico i bambini fino all'adolescenza e vi sono dei bilanci di salute che in effetti un tempo faceva il medico scolastico e così via, previsti in modo da screenare, di identificare ben prima che diventino importanti patologie come possono essere la scogliosi e così via, tipiche dell'adolescenza. Abbiamo in linea con noi Marco, ci chiama dalla provincia di Modena, 824 0024. Buongiorno Marco, benvenuto. Sì, buongiorno a lei. Niente, volevo solo dire che mio figlio quest'anno comincia, oltre alla scuola superiore, comincia danza classica e appare che si è dovuto trasferire a Reggio perché c'è una scuola specializzata. Sì. E le chiedevo ai suoi ospiti il tipo di alimentazione giusta, importante, mio figlio poi è magro, quindi non ha... Sì. Non è in sovrappeso e quant'altro, comunque da potergli dare energie e quantomeno insomma che possa sopportare affrontare bene, questo carico, esatto, certo sia Marco. Il discorso di scuola sia come discorso di danza di attività nel pomeriggio, ecco. Grazie Marco e complimenti al suo ragazzo. Dottor Guala, rapidamente possiamo dare delle indicazioni a Marco? Ma le indicazioni sono quelle normali di un'alimentazione varia. Per quanto riguarda le calorie, sicuramente avrà un dispendio energetico decisamente aumentato rispetto alla media se fa una scuola professionale, per così dire, di quel tipo. E poco tempo fa ho letto che Phelps, quello che ha vinto 8 medaglie, consuma 12.000 calorie al giorno. Ma ovviamente anche il consumo è ben diverso da quello di un normale impiegato o un normale bambino che si muova. Allora, io devo iniziare a salutare i miei ospiti, perché hanno in linea con noi, abbiamo qua già vicino a noi, abbiamo Valeria De Rosa, pronta per affrontare un tema molto caldo. Valeria. Buongiorno Nicoletta, a te, ai tuoi ospiti e a tutti i nostri ascoltatori. E sì, tra pochissimo nel corso di Salve Danaio continuiamo a parlare di scuola, questa volta però lo facciamo da un altro punto di vista, ovvero quello dei costi. Non solo i libri, quindi i testi scolastici su cui torneremo, ma anche i costi relativi alle cartelle, agli astucci, alle penne, anche alle mense, ai trasporti, il costo delle gite per esempio, a cui magari non si pensa proprio all'inizio dell'anno, e ovviamente le tasse scolastiche. Quindi appuntamento a tra pochissimo con Salva Danaio. Grazie allora Valeria De Rosa, noi abbiamo un minuto per, vorrei così come abbiamo iniziato con un giro di tavolo, a chiudere rapidamente con un messaggio dei nostri ospiti. Inizierei dal dottor Colombo. Dottor Colombo, allora, un buon inizio per dire io speriamo che me la cavo, dal suo punto di vista un consiglio. Ma direi di secondare i ragazzi, farli entrare a scuola e farli iniziare la scuola con una buona routine, dove tutti questi fattori di cui abbiamo parlato questa mattina, quindi l'alimentazione, l'attività fisica, possano essere ben bilanciati per, e cosa che non ci dobbiamo dimenticare, lo sviluppo e la armonico, consapevole, esatto, del, ecco, del, di prendere del un bambino. Po' il ragazzo no, nel suo complesso, per mens sana in corpore sano. Dottor Guala, lei sicuramente su questa massima latina è d'accordo, ma che cosa aggiunge? Aggiungerei che magari oltre alla prima colazione abbondante, come abbiamo capito dalla chiacchierata di oggi, magari andare a scuola a piedi qualche volta, e magari tutti i giorni con un piedibus, che sono quelle organizzazioni dei comuni che magari mettono a disposizione dei volontari che accompagnano i bambini lungo un itinerario predisposto. Alberto, 10 secondi per un saluto, noi ci sentiremo anche Questa casa non è un albergo, sabato prossimo parleremo proprio delle ansie, delle paure che la scuola tante volte attiva. Alberto, un saluto per i nostri ascoltatori? Ma direi come genitori avete tre posizioni, potete stare ogni tanto davanti ai vostri figli perché li dovete proteggere, di fianco ai vostri figli perché li potete sostenere, dietro ai vostri figli ogni tanto per dare spingerli. Una spinta. Allora un saluto da Nicoletta Carbone e dai miei ospiti, appuntamento torna a domani, sempre dopo il GR delle 11. Buona giornata, buon lunedì, buon inizio a tutti. Radio 24. La passione si sente.